L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti. Uniremo in questa puntata due interviste a personaggi molto diversi che lavorano in ambiti molto diversi, ma che ci trasmettono in fondo lo stesso messaggio: cambiare si può e si deve. A maggior ragione in Italia, dove sul campo facciamo troppo poco rispetto alle grandi potenzialità e capacità delle nostre aziende e dei nostri esperti, che infatti lavorano sempre più all'estero che in patria, purtroppo. La prima intervista che vi proporremo è a Monica Frassoni, presidente dei Verdi Europei, con cui abbiamo parlato di economia circolare, cioè il tema della Green Week della Commissione Europea di quest'anno, forse lo ricorderete perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana. La seconda intervista sarà a Pietro Colucci, presidente e amministratore delegato del gruppo Kinexia, con il quale parleremo di un interessante progetto sviluppato da una delle aziende del gruppo, Innovatech, per un impiego smart delle rinnovabili che al momento è difficilmente realizzabile in Italia, per questioni normative però e non certo tecniche. Ma iniziamo, come dicevamo, da Monica Frassoni, presidente dei Verdi Europei. Lo spunto dell'intervista è stato il tema della economia circolare, quella cioè in cui si recupera, lo ricordiamo, si recupera e si ricicla il più possibile per produrre i nuovi oggetti. Non si estraggono continuamente nuove risorse, ma si recuperano sapientemente quelle che sono contenute negli oggetti che gettiamo via, quindi con un minore impatto ambientale, minore quantità di rifiuti da smaltire, più lavoro per gli addetti e le imprese specializzate nel recupero. È tutto possibile, ma la politica ancora non ci crede sul serio, dice Frassoni. Parlare di economia circolare è una cosa che può sembrare molto eco-chic e ha la difficoltà di non essere vista come una vera sfida della politica, diciamo, perché ci sono moltissimi esempi sparsi che funzionano in tutti i settori, nel settore della tecnologia, nel settore dell'impresa, della grande impresa anche, nel settore anche della politica, quindi della gestione delle città, però questa cosa non riesce a diventare mainstream, cioè non riesce a diventare veramente un elemento di cambio generale. Perché non c'è ancora una maggioranza nella politica e anche nel consenso dei cittadini che dice va bene, questa è la direzione che noi dobbiamo prendere. La questione dell'economia circolare non è una questione morale, è una questione di convenienza per il pianeta, nel senso che dobbiamo fare in modo di capire che le risorse sono finite, e di convenienza rispetto alla battaglia, alla lotta ai cambiamenti climatici, che sono reali, che esistono e che hanno delle forti conseguenze. Quindi il tema della competitività dell'economia non può fare finta che questi due elementi non esistono, e noi abbiamo oggi delle tecnologie e dei prodotti che ci permettono di superare questi problemi o almeno di affrontarli, però questo deve diventare una priorità. Se diventa una priorità per tutto il sistema, non soltanto economico ma anche politico, credo che l'Italia potrà davvero essere la leader o uno dei leader di queste Ne ha le capacità, diciamo. Esattamente, noi dobbiamo considerare che il nostro paese è il secondo per green economy in Europa, dopo la Germania, e dal punto di vista della capacità di assumere e della capacità di esportare, sono proprio i numeri che ci dicono che le imprese che investono in tecnologie verdi sono quelle che assumono di più e quelle che esportano di più, e quindi bisogna semplicemente andarci dietro e non ostacolare questo processo, anzi fomentarlo. Infatti non c'è un modo di agire su questo tema che abbia dato successo e che possiamo esportare, quindi... No, io penso che ci siano degli esempi, ma che questi esempi siano rimasti relativamente limitati, e che il fatto che non siano potuti diventare cambio di sistema dipende da due cose, perlomeno nel nostro paese e nel nostro continente. Il primo è che le elite che decidono non sono convinte, cioè non sono proprio convinte che, per esempio, in un paese come l'Italia uscire dalla crisi significa trovare nuovi metodi, nuovi modi di produrre, nuovi prodotti e quindi nuovi lavori. Siamo ancora molto sulla difensiva, siamo ancora molto sul fatto che dobbiamo riuscire a salvare la nostra industria manifatturiera così com'è, e quindi questo sistema di dire, come abbiamo sentito il nostro amico della Nissan Renault o anche il nostro amico cinese, dobbiamo cambiare modo di pensare, non ci siamo ancora. E quindi, poiché questo non c'è, il tipo di modello economico che ancora viene proposto è quello vecchio. è quello vecchio, il che è stato peggiorato dalla crisi. Quindi noi dobbiamo riuscire, attraverso la capacità di portare queste best practice, queste migliori pratiche all'attenzione dell'opinione pubblica, a cambiare questa mentalità e anche cambiare la mentalità degli industriali, cosa che in Italia è fondamentale. Sarà una dura battaglia. Come si fa a uscire da qui? Cioè, sarà una dura battaglia, dobbiamo portarli fuori, questo esempio. Beh, per esempio, l'Italia sta entrando sta preparandosi alla sua presidenza, ma a me sembra che ci sia una priorità che l'Italia deve prendere davvero in mano. Se vuole rinegoziare il famoso 3% del tetto del debito, allora deve capire quali sono gli investimenti che vuole fare. Se vuole investire in tunnel, autostrade e grandi infrastrutture inutili, sta andando in una direzione sbagliata. Deve invece investire in ecologia, in economie, in energie rinnovabili ed efficienza energetica, perché in Italia ci sono le imprese e ci sono i lavoratori che possono andare in questa direzione e permetterci di essere molto più competitivi sul mercato di quello che siamo adesso. E credo che se l'Italia dovesse diventare il campione di questo nuovo pacchetto energia 2030, molto più ambizioso di quello che adesso si sta discutendo, invece che resistere e mettere i piedi, mettere il freno a mano, credo che sarebbe una grandissima, un grande modo per fare in modo che anche l'economia circolare diventi più che una nicchia nel nostro paese. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, ancora ben ritrovati da Laura Bettini, seconda parte di questa puntata motivazionale, per così dire. Cambiare si può, stiamo ripetendo. Prima con le parole della Presidente dei Verdi, Monica Frassoni, che ci ricordava come l'Italia è la seconda economia verde d'Europa dopo la Germania, ma che purtroppo il fatturato di queste aziende green viene per la gran parte realizzato all'estero, perché in patria ci sono ancora troppe resistenze e troppa burocrazia anche. Ed eccoci quindi alla seconda intervista della puntata. Pietro Colucci è presidente e amministratore delegato del gruppo Kinexia, di cui fa parte Innovatech, presieduta sempre da Colucci. Il tema qui è l'energia da fotovoltaico, da mettere in rete e non nella rete, con la R maiuscola per così dire. E questo si può fare grazie alle potenzialità del web, ma non si può fare a causa della normativa vigente in Italia. Sentiamo cosa ci ha detto Colucci, innanzitutto per spiegarci qual è il progetto sviluppato da Innovatech. Una volta i produttori di energia erano ben poche grandi aziende ben identificate, i consumatori una miriade di persone, di famiglie, di imprese. Oggi in realtà sta venendo avanti la figura del prosumer, cioè del produttore consumatore, che si autoproduce da fonti rinnovabili in particolare, quindi da microeolico, da pompe di calore, da geotermia e da fotovoltaico, si stocca magari l'energia in casa o nelle imprese con dei sistemi di stoccaggio che ormai sono all'avanguardia e sono tecnologicamente molto evoluti e anche a basso costo, e si consuma l'energia nelle fasce orarie in cui effettivamente gli serve. Tutto questo consente poi di mettere in rete la propria esperienza, tutte le informazioni della profilatura di questa clientela, e consente poi di creare una sorta di community in cui inizialmente gli utenti si scambiano informazioni sulle modalità di consumo, sulla tipologia di produzione, sui costi della bolletta, sull'efficienza energetica che producono nelle loro case, nelle loro imprese, e poi nel tempo potrebbero, tecnologicamente possibile, normativamente ancora no, scambiarsi addirittura energia, cioè scambiarsi il surplus di energia senza passare dalla rete, con dei meccanismi premiali che sono l'anticamera delle cosiddette smart grid, cioè delle reti intelligenti che creano distretti dove gruppi di utenti, famiglie, imprese o aziende commerciali possono essere indipendenti dalla rete, quindi sottrarsi ai costi di sistema. Quindi i miei vicini concorrerebbero alla mia energia, no? Io alla loro, loro alla mia, a seconda dei momenti in cui ne abbiamo bisogno, insomma. Esatto. Facciamo quindi delle isole. Questo ha un aspetto economico di risparmio, di vantaggio, perché sottrae questi utenti ai costi di sistema, cioè della rete, di dispacciamento, alla tassazione che implicita nell'ambito delle bollette, quindi ha un sostanziale risparmio, ma il fondamentale approccio è che si tratta di energia prodotta, autoprodotta da fonte rinnovabile, quindi che contribuisce al sistema della lotta ai cambiamenti climatici. Senta, lei diceva questo tecnologicamente è possibile, normativamente da noi no. Che cosa ci manca, che cosa dobbiamo cambiare nella normativa attuale? Dunque, nel passato ci è mancato come chiarezza. Cioè il legislatore è stato spesso tirato per la giacca da una sorta di battaglia sorda fra produttori da fonte fossile preoccupati dell'andamento delle loro aziende e quelli da fonte rinnovabile. Si è creata una strana, diciamo così, guerra sorda su cui il legislatore è stato un po' messo in mezzo e quindi oggetto di, diciamo così, di confronto fra lobby. In realtà è un problema molto semplice, il mondo va nella direzione della produzione di energia da fonte rinnovabile. Noi siamo stati testimoni di un incontro al Fondo Monetario Internazionale che ci ha rappresentato un rapporto della World Bank dove dice che il rapporto tra energia da fonte fossile e energia da fonte rinnovabile si deve invertire nei prossimi 10 anni, perché ormai stiamo bruciando molto più ossigeno di quanto possiamo permetterci e entro la fine del secolo, se continuiamo così, saremo a 6 gradi di aumento della temperatura con lo scioglimento dei ghiacciai, e questo non lo dice Greenpeace, lo dice il Fondo Monetario Internazionale e la World Bank. Allora, la scelta del rinnovabile è una scelta di campo che va contro i cambiamenti climatici, non è una scelta economica, è una scelta, come dire, ambientale. E questo purtroppo il governo all'inizio non l'aveva capito. Quando ha capito che il meccanismo era questo, quindi il protocollo di Kyoto, l'Europa che spinge, eccetera, ha fatto solo questa battaglia, ha messo in crisi il sistema tradizionale della produzione di energia da fonte fossile. E questo ha sollevato degli scudi. Oggi la legislazione italiana è molto rigida sull'evoluzione tecnologica nella direzione dell'autoproduzione, perché ha timore che i consumatori che si sganciano alla rete di fatto si sottraggono ai costi di rete, quindi poi la rete chi la paga? Con questo interrogativo di fatto abbiamo posposto quello che nel mondo sta diventando la corsa verso il futuro. La stessa Enel, che è uno dei più grandi, diciamo, ricercatori dal punto di vista tecnologico sulle smart grid, vende sistemi intelligenti all'estero, in Cina, con accordi milionari, e non riesce a realizzarli in Italia, il che è paradossale. Eh certo, però la domanda all'origine, quella che lei diceva, è chi paga la rete, effettivamente ce la dobbiamo porre. Come è stato affrontato questo aspetto altrove, all'estero intendo? Beh, devo dire, l'Italia ha il limite, su questo bisogna farsene un pochino la ragione, lo dico anche agli amici dei produttori da fonte rinnovabile, quindi i miei colleghi. L'Italia ha una situazione preesistente dove la rete è servita con una scelta che fu degli anni 60 ad andare a raggiungere gli utenti più disparati nei punti più dispersi della penisola, ed è stata una scelta di cultura, di costume, che sulla quale non si può tornare indietro. Oggi quello è un dato oggettivo, incontrovertibile, che qualcuno a questo costo lo deve pagare, diversamente lo Stato sarebbe costretto a rinazionalizzare Terna, il che non è possibile. Quindi bisogna cercare di contemperare le esigenze di una situazione preesistente con una situazione di mercato che evolve. Negli altri paesi, soprattutto nei paesi come la Cina, il Brasile, la Russia, l'India, che non hanno rete elettrica nazionale, anche per l'enormità delle loro estensioni territoriali, l'energia può essere prodotta dove serve. E allora le reti intelligenti sono la risposta evoluta e da fonte rinnovabile a un sistema che chiede quel tipo di esigenze. L'Italia purtroppo ha un limite di preesistenza di un sistema con cui deve fare i conti. Quindi dovremmo trovare una via di mezzo. Ci vorrà una via di mezzo di buon senso, diciamo. Di buon senso. Nel frattempo però temporeggiamo, perché non stiamo pensando a qual è la via di mezzo, stiamo semplicemente temporeggiando, mi pare. Sì, il governo ha fatto un provvedimento tampone, che è un po', come dire, una soluzione salomonica della serie. La possibilità di scambiarsi energia fra utenti esiste con le cosiddette SEU, cioè la possibilità che un utente, uno e solo uno, possa cedere il suo surplus a un altro utente, che sia esso una famiglia, un'impresa, diciamo, un'azienda commerciale. E però non può essere fatto fra una pluralità di soggetti. Quindi sostanzialmente consente a questo di continuare la ricerca tecnologica, perché ovviamente uno spiraglio minimo c'è e la speranza che questo spiraglio domani si apra ovviamente esiste, noi facciamo il tipo per quella, ma non c'è la possibilità ad oggi di poter diffondere su scala nazionale il sistema dell'autoproduzione, della cessione in rete delle smart grid. Dunque, io ho sentito dire a Bruxelles che la green economy italiana è la seconda in Europa dopo la Germania, ma non è certamente in Italia, cioè le imprese italiane della green economy lavorano principalmente altrove, e mi pare che il gruppo che lei presiede, esatto, sia esattamente in questa situazione, è così? Guardi, questo è un grande dispiacere doverlo ammettere, per due ragioni. Il sistema degli incentivi, che tante polemiche ha suscitato, soprattutto da parte di una vecchia parte di Confindustria che invece sperava che quegli incentivi andassero nella direzione di sostenere le imprese manifatturiere, ha creato un indotto straordinariamente ricco e straordinariamente capace, perché è un indotto che crea occupazione giovane, sana, perché è rivolto al futuro, a un sistema che è destinato a soppiantare i vecchi sistemi di produzione di energia elettrica. Questo è stato sostenuto anche grazie agli incentivi, e gli incentivi avevano proprio il senso di far decollare un comparto. Questo comparto adesso è decollato e però in Italia non trova più capacità, diciamo, di assorbimento della propria tecnologia, perché diciamo, il governo ha dato una sterzata durissima, e in questi giorni addirittura si parla di un decreto spalma, cosiddetto spalma incentivi, cioè che taglia retroattivamente gli incentivi concessi anni fa, che è una ricetta come si dice, che noi chiamiamo spagnola, cioè che poi fa scappare tutti gli investitori dal paese invece che attirarli, e quindi le imprese italiane che hanno sviluppato queste tecnologie, queste competenze, questo know-how vanno a piazzare all'estero. L'esempio più eclatante che le ho fatto, a parte noi ovviamente che siamo un'azienda di medie dimensioni, è proprio l'Enel, che ha sviluppato con ricerca che è durata per anni queste tecnologie, e oggi va a cederle all'estero perché in Italia non sono applicabili, il che è paradossale. Gli utenti italiani pagano attraverso gli incentivi e la componente A3 della bolletta un sostegno a un settore che poi mette a frutto queste competenze fuori dall'Italia, che è assurdo. Senta, la sua visita in Cina, ho letto che è andata particolarmente bene. Che... Guardi, la Cina è un mercato incredibile. Se lei prende perché tutti... c'è tutto il contrario di tutto, immagino, in Cina. Cioè. E per la verità, se lei prende tutti i dati relativi alla crescita mondiale, ritroverà quei tre continenti, se, diciamo così, soliti. Asia, in particolare Cina, quasi tutta l'Africa e il Sud America. Sono tagliati fuori paesi come l'Europa, che non crescono da 10 anni, a parte la Germania, e che probabilmente non continueranno a non crescere, e in questo, diciamo, teatro è molto difficile lavorare. Se poi considera che l'Italia ha il costo degli interessi più caro d'Europa, ha il costo dell'energia elettrica più caro d'Europa, ha una burocrazia asfissiante, bla bla bla, le imprese che vedono la Cina come un mercato potenziale straordinariamente grande, virtualmente infinito, in crescita con l'8-9% all'anno, per noi, come dire, è il paese del Bengodi, quindi è chiaro che tutti si fiondono lì. L'idea è quella invece di continuare a crescere anche come azienda domestica, e su questo devo dire che noi cerchiamo di contemperare un po' l'esigenza di uscire dai confini per crescere e continuare a mantenere una presenza italiana. Quindi non c'è l'idea di andarvene, insomma, nonostante tutte le difficoltà? Guardi, io credo che questo governo abbia il diritto e da parte nostra l'obbligo di dargli fiducia. Lo credo sinceramente, non sono un sostenitore, diciamo così, di questo o di quell'area di governo, do un giudizio acritico. Renzi chiede fiducia e credo che abbia diritto di averla. È andato in Cina, in Vietnam, in Kazakistan, dove i premier italiani mancavano da anni, se non da decenni, e ha fatto, anche grazie alla sua grande capacità comunicativa, un'ottima impressione. Questo ha ridato fiato alle imprese italiane per riaprire, diciamo, canali commerciali anche attraverso la forza del paese alle spalle, che prima non c'era, e devo dire che su questo bisogna puntare, cioè, non bisogna essere disfattisti, bisogna guardare al futuro con serenità e con fiducia. Gli diamo una possibilità, insomma, ecco, anche due magari, vediamo come va. Direi di sì, noi siamo un popolo di santi, eroi e navigatori, vedrà che la sfangheremo anche stavolta. Beh, chiudiamo allora con questo messaggio, diciamo, di speranza e di fiducia per il futuro. Grazie mille, grazie, arrivederci. Grazie anche a Pietro Colucci, che ricordo è presidente e amministratore delegato del gruppo Kinexia, di cui fa parte Innovatech, che è l'azienda che ha sviluppato il progetto dal quale siamo partiti per questa intervista. Poi, come avete sentito, siamo andati anche su altri lidi. Vi ricordo che per scriverci l'indirizzo è l'altropianeta@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.